Sì. K, buonasera. K, nuovi moduli. Sei basso, sì. Io sono qua, do a Corso Vico. Sei Santiago 5, ma che zona sei? Zona di Porto Torres, dove? Ma sei basso, eh? Allora, già un grido. È così. Capo, ma che zona sei col portatile? E dov'è? Dov'è questa zona? La strada di Sorso. Gappa. Non sei con un grande segnale, però già arrivi lo stesso, vai. Ho detto, non sei con un grande segnale qua, ma già ti tiro pure lo stesso. Tu bene mi senti lì di quella zona? Cappa. Era tanto tempo senza modulare. Sì. Cappa, dai. Mettiti l'antenna appena puoi, almeno ti arrivo più forte io, mi senti più forte tu. Scappa. Luca, ci sei tu? Senti all'amico. Come avanti l'amico. K, ti ascolto basso. Allora da dove stai modulando? E che zona? Dove? Ah, non c'è, allora ho capito, sì. Tu bene mi ascolti? Sei un po' basso, io ti ascolto, dai. Sì, lo sento tanto. Perché quello col fuoristrada? Tanto vedo un tipo con fuoristrada grosso, con la terra di baracchino, chi è? Non lo so. Questo anche poco fa, stamattina, fuoristrada grosso, con l'antenna, c'è l'antenna con quella leggenda di doppio room, quella, la 2001 Turbo. Non lo so, no, care. A Claudio ce l'ha anche. Ma dove? Dove lui? Cappa. Ho capito dove moduli, dai, amico, lì. Sta attaccando qualcosa, lo spinotto dall'alimentatore. Cappa, che già ti sentiamo. Batterie scariche, no, il portatile c'hai. Ma con la tenne in gomma? Ah, per quello che arrivi in basso, capito. Ma sei nuovo o c'è di qualche anni fa? Non ho capito tanto, cos'è che ha detto? Ha detto che gliel'hanno dato perché dice che c'era gente, capito? A 30 anni almeno puoi parlare con noi, è più bene, capito? soffitto, ti metti l'antenna. Sì, ma è nuovo oppure uno che c'era anni fa? Dice di no, dice che è nuovo. Lavato con quadrane, a occhio. È vero. Magari. Ma ragazzi, non vado alla corrotore. Come fa a essere importabile e arrivarmi nove passa qua? Allora, a Pusciodorra, scappa, salutoni, Massassari. Ciao, Bombolo. Buonasera, come va? Va bene? E qua c'è un ventaglio brutto, ci siamo rintanati in casa, quanto è freddo. E chi è questa? Non lo senti? Sì, che lo sento, chi è? Nevada da Porto Torres. Oh, io ho Nevada, mi ascolti? Certo che ti ascolto. Ah, ok, dai, saluto. Io il segnale 2 da messe, vabbè. Fai che sia il segnale 5, dai, lo smetto un po' secco. Se ti ascolto, dai, abbastanza bene. Avanti. Luca da questa parte, Sassari, Monte Rosella, avanti. Ciao Luca, così basso ti arrivo. Vabbè, io ce l'ho smetto un po' secco, dai, capito? Poi vabbè, è una zona negativa per me, cioè, è negativa. Sono in un punto un po' critico, ecco, verso Porto Torres. Cappa, no, qua arriva Santiago 8 Radio 5, senza problemi. Vabbè, lo sai che il 2009 è cane morto, Antonio. Come Smith, come cosa il cane morto, bisogna tararlo. Cappa, sì, no, qua già arriva. Mi senti bene l'amico Porto Torres? È sparito. Cappa. No, sto dicendo a te, come arriva Porto Torres? Ti posso dare a Santiago 5, Radio 4. E a me come mi ascolti Luca qua, come mi ascolti Porto Torres? Io sono con pochi watt, i watt originali del baracchino, avanti. Un attimo. Ah, non ti ho riconosciuto, che sei un bel basso, cavolo. Maledonino. Andate nella villaggio, c'ho la matto qua 5 sul tetto, capito? Chi sei? Bacas, adesso non mi ricordo. No, mannaggia. È un genio, sì. Io ci facevo un bel basso, prima ti sentivo bene, cosa hai combinato? Ho capito, è un genio, dai. Tanto, è un genio, Porto Torres. Infatti ha ragione l'amico che sentiva segnare off. Avanti, tanto riprendi. Però qua arriva, sì, arriva, no, già arriva bene. Buonasera Eugenio, si vuole futti, così è. Sì, io ti conosco di vista. Ci sono quasi 50 anni qua. Vedo quando vai a lavorare in moto, che faccio in moto al posto. Stavo a vedere le mie antenne vicino al faro. Ho capito. noi lo chiamiamo Minuccio, ci conosciamo da sempre. Sì, simile, certo. Sì. Ok, avanti Sassari. Ma io anche loro, dove ce l'hai l'antenna? Ho fatto un bel giro a Porto Torres. Cos'è? È una casa bassa la tua antenna? No, sono forse le più alte che ci sono. E la salita dalla delle porte di via Ponte Romano, di fronte al posto. Ah, già l'ho visto già, già l'ho visto. Perché già ci sono fatto pure io a Porto Torres. Non dirai. Ma non hai antenna sul tetto. La Game Master c'hai? Esattamente. Io sono uscendo con la cosa, con la Ringolem, la conoscete? No, no, non è a radiale. Sul petto, sono qua a Sassari, intorno a Corso Vico io. Non sono una zona bassa, perché se no è arrivata anche più forte a Porto Torres. Certo, lo conosco, è di nome. Sì, è mio vicino di casa, Capagata. Di persona no, la verità non l'ho ancora, se l'ho visto ci siamo visti, però non me lo ricordo molto bene, la verità. Riprendo io un attimino, devo fare un po' di RX, c'è qualcosa, qualcuno qui a casa, scusate. Fai, Luca! Ehi, mi sono un po' di cioccolato, Anto, se no a fuoco. Magna tranquillo. Ciao Eugenio, ci sentiamo. Ciao Eugenio, ci sentiamo. Ciao. E beh, Anto, quando sei a casa? Ma sai che mi squilla il telefono? Ehi, Anto. Luca. Vabbè. Ehi, qua sono. Guarda, non è entrato. No, non è entrato. Questo mal di schiena, mamma mia. Che palle. Campa, succede. Purtroppo, ma pure lui si è travagliato? No. Adesso dobbiamo imbiancare la casa. Fuori però, campagna. Già finita? No, dobbiamo imbiancare la tua. Ma dopo l'imbiancatura ve ne ancora di fa. No, è finita. Dobbiamo fare la facciata. Piano piano già si fate. Già quindi è tempo. Certo, ma hai vinto una gara, deve. No, c'è tutta una gara, è la mia da fare, da pitturare. Allora già fai lì su. Ha detto la casa dei tonacchini, a Cottimo, fai il su 3D. Già un grido via. Cazzo, se lo sai Dani, sai cos'era un altro? Super, ma veloci mi, cazzo, veloci e puliti anche. Fa pompa, Capo, se la macchina niente, già trovato il bravaglio. Vabbè, per forza. Anche capito, si è pagato per fare un travaglio, e qui ci sono verdi. E beh, ottimo. Subito la strada, ne pigliavo dritto, vediamo. Ma ottimo, sai, ci ha fatto un travaglio subito pagando, così. Vabbè. Già andava così. Eh sì, va bene, sì. Oh, via, e sai, vedi, tanto voglio perché monesti, vediamo. Cappa. Oh, io. No, sei uscito tanto. Sì. Allora sono uscito di casa che erano... che erano le 10:30. Sono andato a fare un po' di spesa prima. Poi siamo usciti in campagna. Avete fatto bene. Però niente arrosto, finché non sono belle giornate di quelle belle belle belle, allora sì. Poi oggi già si poteva. Vabbè, ma non c'era tempo, capito? Non c'era tempo. 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Ciao. Col plastico, cosa di buone, la facciata, una cosa del genere. 60 euro che ci sono in monete. 60, cos'era tu? Quanto ci mette in? L'ho fatta con, come si chiama, col plastico, cosa è buoniti. Ah, ebbe per forza. Ci vuole una vernice che no, che resista all'acqua, capito? Bisogna mettere, ma di anemura con la tempera, mi va. Quello c'è che c'è una risorchiera, plastico. Certo, ci vuole quella, là, per l'acqua. Quella che si pone l'altra di dura a bobo. Ah, l'altra ci sciogli, cosa va? Poi, lascia aperta. Ci scioglie. Cioè, ci scioglie, si riesce. Ci vuole quella data per esterni, no? Poi, ragazzi, solo come si blocchi la schiena. Ma tu casino, sta schiena mia è proprio messa male. Ma oggi un po' meno, faccio anche antidolorifico stamattina, poi mi sono messo la fascia, ho messo la Voltaren. Piazzo meglio, però un casino. Ieri cazzo diciamo, se mi sdraiavo ci mettevo un po' ad alzarmi. In campagna si intende lo. A ieri ci sono andati in campagna, un desiddo. Cappuccini, Emmy. E te? Un cappuccino, fratello. Oi. No, che passa dell'aereo. Ma la portante c'era? No. Ha detto domani lunedì a giudizio. Lo so, non ero io che ho toccato. Domani sì, lunedì sì. Domani come te già si è pigiante. Sì. Faccio questo gacchio dell'aria se fara. Aspetta, posso entrare la marina un attimo, lasciamo un messaggio. Via. E avanti. Ciao Antu, sto provando. Ciao Tino, buonasera. Sto provando l'ampli. Va bene. Va benissimo, va. Da solo? Oh, c'è la Luca. Che Luca, ma è come? Veglia. Io ne sono altro. Ciao Luca. Scappa. Avevo un po' di mal di schiena. Ma il prossimo sabato arriva, arriva il container, lui. Bene. Allora farai un mega party di salsicce. Non dirà nessuno. Adesso lo sappiamo io, tu, Antonio, è tutto barato dalla frequenza. Ho già fatto il piano, ma adesso sabato non lo portano. Meglio, Sì, sei saturo, Sì, e ce l'ho, aspetta un attimino. Hola, ancora? Prova. Guarda, 1, 2, 3. parlando forte? È complessa, è un bel complessa, vero tu? La compressione si sente, ma già si sa. Non me ne frega niente, già va bene. Ah, no, già va bene. Molto fatto è, Luca. Un po' della roba di un bel po', Cioè si capisce, ma si sente che si aggancia. Ma sai che problema è stato? Ecco qua. Questa è la metà della potenza, ancora fatto lui. Si sente che c'è compressa, sì. Si ruba il radio, un bel di radio. Che strano, che... vabbè, mi lontano, va bene. Avviciniti. Poi che mi stai arrivando 9:20. Perché questo qua è lo smith, 9:20 se più o meno, dai. Adesso? 9:20 adesso? È agganciato, sì. E adesso invece, guarda. 9. Ma fammi dai, vado a vedere. Guarda adesso, guarda. Allora, aspetta. Ho preso il 9. Allora, ma anche io, praticamente, tu mi stai arrivando a 9, ma sei 9:20, 9, fai anche di più. Perché da tarare, se attacco magari l'altro, quello modificato, magari mi arrivi il segnale giusto. Ma non aggiungare un attimo, io guisà. Adesso tu mi devi fare il passaggio staccato e il passaggio attaccato, vai. Guarda, così è staccato. Guarda un pochino, 1, 2, 3, prova. Adesso lo attacco. Guarda così. Allora, sei praticamente, vabbè, a questo smith eri 3, 5, 6 a 9. Fatti conto, allora, fai che eri 9 prima, scanciato, 8, quasi, fallo 9, dai. 9 e 20, sì. Allora, cosa vuoi di più? Già va bene, dai. Ancora in saturazione? Aspetta che provo a accordare. Così è accordato, Prova, sono sì, saturo, prova. Guarda, così è, diciamo, i watt 500, 600 watt. Questo va bene, vedi. Qua fai da 9:10 a 9:20 oltre fai. Mi sembrava strano che era in saturazione. Vabbè, un po', non è che sia chiara, però già si capisce, dai, va bene. Ma sono anche 600 watt per me, tu. In vicinanza da fastidio. Ti credo. Senti, mi sto sdraiando a chi? Guarda, non riesco a cazzo. Stai seduto, riprendi un attimino. Arrivo subito, Capo, comunque fai tu qua, normale sei 9:10, attaccato sei oltre 9:20. Guarda così a tu invece. Riesci a vedere? Vabbè, questa è l'altra radio, 9:20, normale. La radio è la migliore. È una fobianetta. Va bene, ciao, divertitela. Ciao a te, ci sentiamo. A dopo, vai, ciao. Ciao tu, mio bombolo, mi ascolti, cambio. Ti ascolto. Vabbè, va bene, Ed è a minimo, sì. Ah, una moneta. Senti, tu, mio bombolo, mi ascolti, capo? Va adesso, capa capa e capa capa. Questo è l'ego, senti qua, capa. Merda. Capa capa e capa capa. Ehi, a capa, prova fra. Lo so, ma una radio allucinante. Se collego, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bella radio, cioè io lo usavo sempre con l'eco. C'è anche Roger Bip, ciammi, si schiaccia il pulsante. Già lo so, ma non è messo. Allora, guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio 1, 2, 3. E già anda, Iafra, è una bomba, Fa cappa, va bene. Va benissimo. Stavo leggendo fra, provo Bip a vedere, ma cosa io lo intendo del Brinoghi, a vedere com'è in te, io non l'ho mai sentito qua. Oh, scusate un attimo, Marina, mi senti? Stai 40, tu. Aspetta, faccio la prova, lui, lo fa la prova. Marina. ti sento. No, sta fischiando. Tu non fischi. Prova, riprova un attimino. Luca prende fischi per fiaschi. Aspetta, riparla. Luca prende fischi per fiaschi. Fiaschi per fischi. Boh, è strana la radio, boh. Io devo fare qualcosa? Niente. Ok, passo e chiudo. Chiudi, chiudi. Attenzione, il pombolino. Pombolino non c'è, chi è? Ciao, Giuseppe da questa parte. Beh, Giuseppe, buonasera, salutoni. Basso, ti ascolto qua al monte, come mai? Non lo so, Lu, aspetta il controllo. Oh. Vediamo un po' così. Un po' bassino, sì, dai. Ah, va, va. Eppure sempre lo stesso apparecchio. Va bene, bene mi ascolti a me. Sì, io ti tiro fuori sempre bene qua. E allora diciamo va bene, segnale che è un po' bassino. C'è segnale 2, da me. Fai che sei segnale 5, dai. Tieni presente che io sto scendo sempre a quella maniera, vedi? Dobbiamo fare sempre quel lavoro famoso. Chissà quando lo faremo. Uno di questi anni magari già ci riusciremo, dai. Quando vuoi, sempre di fine settimana, di sabato si fa, Io ho uguale identica giù l'antenna, cioè uguale alla tua, va che è una bombetta, Solo se tu la metti sul tetto è un'altra musica. Lo so, però devo provare, come ti avevo detto, aiutami a dire, il coso per far passare il caso. È vero, è vero. Quello è il casino. Vabbè, la fai entrare dentro il tubo, che te ne frega. Infatti, la faccio entrare dentro il tubo, poi io per te lo faccio uscire da qua, non è un problema. Poi fa un altro buchettino per farlo uscire e poi lo copri, cosa gli fa? Ne fa niente, no? No, assolutamente, gli metto del silicone ed è tranquillo. Poi sai che c'è un problema. Compri un silicone buono, di quelli resistenti all'acqua, e vedrai che fai un capolavoro, non si vede niente. È che il problema è che devi poi lo mettere la terra su, quella è un po' particolare, da tarare, piano piano con la taratta. Una volta che la tari, ci metti anche un palo a 2 metri, va più che bene, guarda. Cioè a 2 metri, 4 metri. Ho già tutto, ce l'ho due tubi d'acqua telescopici. Allora già andava bene, dai, va bene Giuseppe, quando vuoi, sempre disponibile, lo sai, non c'è problema. Poi già lo so, ci mancherebbe altro. Altrettanto ti posso dire io, quando vuoi, la porta sai qual è, sai cos'è e sai dove tu stai. Sai cos'è Giuseppe? Che così mai te ne passa la voglia, mai quando c'è l'antenna magari la sera giusto per rilassarti una mezz'oretta, là, ti fai 2 chiacchiere e ti passa la serata, capito? Poi, quando arrivi a casa magari un po' stanco, ma non hai voglia, a me capita, che arrivo stanco e non... proprio faccio un paio di passaggi, anche non viene gana. Poi lo caso, ci sono giornate che arrivo a casa, mi faccio la doccia, guardi appena di televisione, tanto per resettare un pochino la testa, cini e poi a letto a guardare un po' di TV. Idem con patate, ma te sì cosa posso io, uguale. Perché devi essere anche un pochino più rilassato per metterti al baracchino, no? Esce da lavorare, arrivi qui e sto a fatti con lui, non è facile. No. Poi arrivo a casa, docetta, poi faccio merenda, mi impigiavo, prima ovvio, faccio merenda e poi relax, facendo la TV mi guardo... come si dice, mi guardo qualcosa, sì, lasciando il baracchino, però se non si stanco non te ne viene voglia. Sì, infatti anche perché quando sei stanco poi non riesci a trovare manco argomenti. Esatto, vediamo un po', Bomboli si è rientrato. Antonio ero da un po' senza sentirlo al dirittino. Ah, tu ci sei. Forse sta facendo cosa. E ho acceso e l'ho sentito di cosa, di sfuggita, però mi pare che c'era anche un'altra persona che sta già modulando con lui. Sì, Giuseppe, Franco California. Allora, perché facciamolo entrare? Sono spostati, mi sa, 40, boh. Adesso qui in realtà già siamo qua. Cosa hai fatto Giuseppe oggi, in giro? Sì, ci siamo fatti un girettino, lui, senza impegno, sempre con la massima attenzione, perché non abbassiamo la guardia proprio adesso. Oh, Giuseppe. Allora, il problema è che secondo me hanno fatto troppo in fretta. Troppo, la gente ne approfitta, perché ho visto tutti questi mesi chiusi, wow, un casino non esce, vedrai. Poi per prima cosa devono controllare quando entrano da fuori, capito? Aeroporti, porti e che ballacche. È lì che è il problema. Però tu controlli a tappeto, non è che vado in trappa a fa cash. Ci interessano i soldi. Sì, vabbè, i soldi sono importanti, però è inutile che ci sono i soldi quando poi ritorniamo a punta a capo. È meglio che magari, come si dice, che faccio questi controlli e poi i soldi ci entrano lo stesso. Ma in effetti sono perfettamente d'accordo con te, è inutile avere i soldi giù quando non hai più la salute, che cosa fai? Infatti, chi so. La loro pensano ai soldi, Giuseppe. Guarda, ti dico una cosa. Hanno fatto entrare, vabbè, non faccio nomi, a una persona senza controllarla, è venuta in ferie qua, nessun controllo, niente, lei, questa persona era in zona rossa. Cavolo, signora, ma guarda, io fossi stato in loro zona bianca, avrei aspettato un pochino, avrei fatto aprire i ristoranti, sì, con le dovute cautele, per carità, perché loro devono lavorare, però sempre in zona gialla. Zona bianca è troppo, secondo me adesso è liberi tutti e si salvi chi può. Allora siamo molto una gialla di tutti, poi magari si trova con un bicchiere di troppo, ma secondo me ne c'è un casino, vedrai. Duriamo poco, quasi niente, vedrai Giuseppe. Stavo guardando al telegiornale e sei visto su a Milano, cazzo gli afferratori. Secondo me è troppo in fretta ha fatto. Se vuoi fa aspettare un po' come hai detto tu prima. Troppo. Adesso vabbè, da domani aprono i ristoranti, i bar, vabbè, il mare, poi per quanto riguarda il coprifuoco non si sa niente ancora. Mai lo prolungano, fino a mezzanotte. Guarda, io so dalla circolare che hanno mandato che per i ristoranti alle 23, alle 9 invece è tardi. Vabbè, dammelo qualcuno, si può bere anche un caffè, capito? Si può bere una birretta, che so che vi piace. Basta che non fanno, aspetta un attimino che chiudo qua, basta che non fanno assembramenti, quella è la cosa importante, altrimenti è un casino. Allora, la birretta si poteva bere anche prima, il caffè lo stesso, per carità, però io dico sempre con le dovute cautele, inutile, entri al bar, prendi quello che devi prendere e poi te ne vai subito. Esatto. Ehi, vabbè, ma non è così Giuseppe, per noi magari è così, però per quelle persone fissate di stare buttati dentro il bar tutto il giorno, dalla mattina alla sera, non è così. Loro lo prendono come se non ci fosse niente. E come ti ho detto prima, mai ci trovo con un bicchiere di troppo nello stomaco e iniziano a far cazzati. Black? Avanti. Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti. Buonasera Antonio, mannaggia, con la speranza che ci arrivo fino a lì, A voglia, sì, Santiago 910, Radio 5, sì, io come ti arrivo? Arrivi 9 più 20 e Radio Super 5. Cappagatta, prima eravamo vicini, adesso non più. Come va? Cavolo, io ero una di sentenditi. Ehi Anto, come stavo dicendo a Luca poco poco fa e devi trovare il momento per entrare in radio. Quando il lavoro, quando mille cose, deve coincidere. Sono contento che ti ho risentito dopo un po' di tempo, cavolo. Sono contento, va. Vabbè, ora non sono più lì, ma già ci sentiamo lo stesso a bomba. Appagata, la radio o avvicina, anche se siamo lontani. Non è mai un problema. Avanti. Infatti siamo tutti vicini, Giuseppe. Tutti vicini. Santo appena a tempo Giuseppe, dai, se ne ha voglia sempre di farlo. Che piacevo questa benedetta antenna sul tetto, così ci arriva meglio. C'è la boomer, quella grande c'hai, Giuseppe. Penso di sì, illuminami, perché non me ne ricordo più. Mi sa di sì, è la boomerang grande c'ha. Penso di sì, perché un giorno io fanno piazzata e arriva fino al soffitto. Sì, quella da 4 metri, Come quella che c'è tu. Sì, sicuro radialino, certo, quella lì. Allora, abbiamo visto già il tutto, no? Solo che Giuseppe, per far passare il cavo, vorrebbe bucare un tubo, farlo passare lì dentro, in modo che non si veda niente, mi. Oppure sarà fattibile farlo passare dietro il tubo, in modo tale che non si vedesse niente, ma è un casino, come fa? Ci vuole una scala lì. Ci vuole una di quelle scale lunghe. Vabbè, ci si arrangia, dai. Lo so, però qua bisogna fare le cose fatte bene, perché casi non ce ne devono essere in faccia. E che era di Tuicio? I condomini. Già si può fare. Non è che non si può fare, no. Non si può fare perché anche l'amministratore e qui devono essere fatte le cose in regola, la facciata è pulita. Sì, ma ho detto il lavoro qua, già si può fare, in qualche maniera devi passare su un cavo. La maniera già c'è, devo procurare un cestello, farlo scendere, fargli un buchettino e portarlo vicino alla finestra, al caso, tutto lì. Allora, se vuole fatto un bel lavoro, vuole fatto. Cosa tieni? Quella lì di antenna, va bene quella, sì? Sì, tengo questa. Non ne metto altra antenna sul tetto. Questa basta e avanza. Se dove arrivo, arrivo. Dove non arrivo, alzo pazienza. Capa. Una cannonata mi mettendola sul tetto quella, non c'è problemi, arrivi dappertutto. È positivo. Olu, quando poi capita ti voglio sentire con quell'altra antenna. Giuseppe, io sono sempre, questa settimana no. Sì, vabbè, fine settimana magari, dai, fine settimana. Ti scendo giù, tipo giovedì sono lì, per esempio. No, va bene con l'antenna. È che deve essere in due per tararla, Giuseppe, è un casino, non è semplice, capito? Però è un'ottima antenna. Quando sarà facciamo uno su e uno giù, perché ho visto che per tararla sicuramente si allunga e si accorcia quel radialino. Sì, beh certo. L'abbiamo tarata con Claudio, è praticamente 1-1, 1-2, non di più, è perfetta, funziona benissimo. Poi dove arriva me l'ho messa in terrazzo, se la metti sul tetto è un'altra musica, hai più ricezione, l'ho messa in terrazzo perché ho avuto dei problemi con quello di su, mi stavo mezzo attaccando, mi ha anche minacciato, vabbè. Ho evitato, dai, ho detto vabbè non piazzo più niente, basta, la metto in terrazzo e si finisce lì. Sì, sembra la maniera della bracottenza a mano in Kiwi. C'è stato un brecco, avanti. Ma io non ne sento break. Aspetta, parlando. Sì, su quello sono perfettamente d'accordo, però per il decoro della facciata non è che ognuno cala un cavo, se no ne viene fuori una porcheria. Si cerca sempre di fare il lavoro più pulito possibile. Sì, certo, anche perché il cavo, per quanto riguarda il baracchino, nel limite del possibile si fa passare dentro il fluviale, si fa un buchetto al lato e si fa uscire all'altezza del piano, dopodiché si richiude il forellino con del silicone e il gioco è fatto. Chi sta parlando? Non lo so. Perfetto, perfetto Charlie, ti rilancio subito a Pombolo che è in ascolto. Avanti Pombolo per Charlie. Lo sento molto basso io, molto basso, Luca addirittura zero. Salutoni Charlie, copia Antonio, da che zona stai modulando? Fammi la punta perché io non riesco a tirarlo fuori. Sento che c'è ma è molto basso. Cosa ha detto Giuseppe? Sì, ha detto che ci ascolta sempre e niente, vi saluta. Perché in questo momento è molto imbarazzato e niente, ricambio i saluti da parte di Bombolo e da parte di Luca. Vai, da parte mia Charlie, buona serata e buon tutto, a presto, ciao Charlie, avanti Luca. Ma lo senti Vito Lento, la tua? Zona dice che la zona latte dolce con un antennino nel cortile, però dice ci ascolta sempre con molto piacere e a noi fa piacere se entra perché a quanto capisco io è una persona molto cordiale. Ho capito. No, qua niente, non arrivava proprio niente, figurati, manco da Antonio. Infatti un po' mi ha meravigliato Antonio, che lo sentiva lui o no. Poi c'è manco lui lo sentiva, vabbè, davanti Antonio. Non è che non lo sentivo che stava parlando ma non riuscivo a capire quello che stavo dicendo, ho capito? Lo sentivi bisbigliare, dai. Sentivo bisbigliare, capivo che c'era ma non capivo cosa stava dicendo. Cappa, l'importante è partecipare, diceva qualcuno. Ti ho mandato una bella foto, ti ho mandato Giuseppe, se ti piace. Antonio? Eia! Eia, un attimo che c'è lei al volo che ti saluta, vieni qua. Ciao, buona domenica! Grazie Lella! Buona domenica anche a voi! Tutto a posto? Tutto a posto, Le! Tutto a posto! Meglio così, un bacione a tutti! Cappa, adesso sono da casa nostra, di mia e Sara, non sono più lì a latte dolce. Oh, e dove sei tornato adesso? Sono con la Sassari Vecchio. È centro storico. Ecco, io così importante che stai bene tu. Cappa, abito con la mia compagna adesso e siamo bene. E io così ti auguro tante cose belle, un bacione a te e alla tua compagna. Grazie. Mi ha già obbligato un microfono, mano, se no me ne potrò trovare a Chino. Lasciamo modulare pure a lei. No, che poi si prende il vizio del birichino e da poi me ne butti tutti gli apparecchi da qui su. Come tu cambia fra l'antenna? Ah, oh Luca, andiamo Lella sopra il tetto per l'antenna. A tua moglie? Cappa, la leggo con un palloncino, quanto già leggera. Ma andiamo a Lella, guarda, saluto anche io. Certo, Giuseppe, non c'è problema. Con un palloncino, anche due, dai. Ti metti quell'aria, come si chiama? Quella, adesso mi viene il nome. Sì, quella che serve per gonfiarli lì, quelli che rimangono su. Ma se gliene metto due di palloncini e se c'era questo piano. E poi ne di uno allora. Uno e poi con la cannuccia, con la cerbottana, come a tiro. Allora, se no anche il coso, Giuseppe. Una carabina. Ma davvero. Aiuto a fare il fatto, dai. Fatta è, aiuto Antonio, se ti unisci anche tu. Aio, che lo vuoi. Beh, ragazzi, io mi sa che adesso vi devo lasciare. Cappa Giuseppe, mi ha fatto molto piacere sentirti dopo una marea di tempo. Fatti sentire più spesso. Andavi Anto, ha fatto piacere anche a me sentire a te, sentire a Luca e sentire gli amici, perché è bello quando ci si sente, ti vedi tranquilli, ci si fa un discorso a tutti quelli spaccati, insomma divertirsi, scambiarsi quattro chiacchiere senza scintille, né a voci, né a bisticciare, né a niente. Non ce la fa con nessuno, io no. Dai, Anco, salutoni a te e alla tua compagna, dai. E Lu, a te altrettanto. Noi già, in qualche maniera, già ci sentiamo. Ehi, a Gisela, anche a me ha fatto piacere averti sentito. Fatti sentire più spesso, là, quando hai tempo, anche tu c'hai cose da fare, come tutti. Va bene, poi quando vuoi, sempre disponibile per fare quel lavoro là che dobbiamo fare, là. Poi magari se vuole venire anche Antonio, così, pochi, ma non c'è casino, là. Va bene, salutami a tua moglie, Gisela. Buona serata anche a te e buona giornata per domani. Ciao. Ciao a tutti, a presto. Ciao. Ciao Giuseppe. Positivo la camera oggi, stasera te mangiamo, ma per molto non ne ho fame. Nada, non ne ho. Un pezzo di mamma allora. Chi Giuseppe, buonasera. Giuseppe è tornato. Oh Tino. Ciao, salutone Giuseppe, è tornato, se ci sei ancora. Vabbè, non c'è. Bene. Chissà che è quello con una specie di Range Rover, cioè un fuoristrada, nuovo anche. Conta nel baracchino con la 2001 turbo con la base magnetica, chissà chi è. Non so. Valtteri è impossibile. Ora, e ci farò io se c'è una bombola che andando in Oramara. Qualche uno ha cambiato, devo sapere che tu non sei pratico e quindi insomma chiama qualche uno competente. Sì, non sono pratico, no, appena. Però conosco un bravo bombolaio, mi altro, se ti interessa dimmelo. Regale. Tu non ti preoccupare, gare, e piglia già a prendere poco per stare le bombole. Già me la piazzo io. E da mai mi potevo incanare a casa? Andiamo, chi è che? Io a casa la piazzo io, ma io lo stesso. Se la piazza io, io la piazzo io. Devo cambiare il tubo, mi? Pronto. E se, quanto lo vedete il metro, il tubo nuovo, quanto? Ah, di solito io vado e me lo compro, cioè lo compro al negozio, non ne teniamo, capito? Ma non li avete voi, ho capito, no? Bisogna comprarlo, boh, almeno 2 metri, 1,5 metri, là. Bisogna cambiarlo, perché quello di Marina scade nel 2021. Non si sa che mese, ma meglio cambiarlo prima, ma almeno siamo più sicuri. Allora tutto quest'anno va bene. Vabbè, ma meglio già un ballo, tanto, perché Marina lascia la bomba aperta, capito? Non la chiude. Non sa rifare, va venuta. Una notte sarebbe meglio chiuderla. Però capito. Ma tutto quest'anno va bene, il prossimo anno lo devi cambiare. Ok. Dai che scendo giù e cambio la bomba. Ma sicura che è finita, ma è strano. Sì, allora, tutto l'altro, questa roba su cui tagliamo un attimo. Ciamba la bomba, la ciamba. Ecco Calivoni, la gente di qua vita mia. Che è bello. Ciao Locariello, buonasera, ben ascoltato. Mi ascolti bene, sì? E secondo te? Lo stavo chiedendo. Tutto positivo, guardate che c'è di qua per che beh. Tutto controllo. Tutto bene, ma qua al monte sì. Cava di positivo. Sì, a Puglia. Tutto orologio qua, guardate che beh. Che beh, mi c'è anche il tio che beh. Che beh, positivo che beh. Tino Muscolo. Ehi, buonasera. Ciao Tino, buonasera, mi auguro che mi ascolti. Adesso più che una bombetta. Sto pilotando con pochi watt, Tino, sto uscendo con 5 watt modulati. Volevo sapere se la radio era buona, se era pulita la te. Sì. Va bene. 9 quasi 20, 9 quasi 20, 21 emulati. Cappa di positivo, va bene. Andare. Lì Flaco c'è la posizione, cavolo, spazza l'antenna lì e poi da te è ancora meglio. Praticamente lui è su e tu sei giù, Tino. E ti bica in pieno. Hai a voglia, va bene. Vabbè, io lo stesso sto usando questo, mamma. L'altro lo staccato. Questo va bene. O ti arrivo io, ti arrivo, guarda un po'. usando l'antenna col piazzato, almeno questa rende. Oh Tino, quando ti arrivo io il segnale? Siete quasi uguali, quasi uguali. Se lo c'è la manto, poi lui c'ha l'antenna. Che te ne hai messo fra? Un'antenna da 13. vabbè, ma c'è la posizione, inutile, isso, contravolto. Ma se vuole un filo, un dipolo, arrivi forse di me. Allora, quell'antenna l'ho pagata 35 euro di seconda mano, nuova, nuova, nuova. Ma sul tetto l'hai messa? K. E che antenna è, fra? Beh, un'altra cosa, almeno mi senti meglio. Figlia, che antenna è? Ma... aspetta che mi... Venox, mi sa. Ma Venox. Ma è K. Ma questa la vuoi sì o no? O ti lasci quella? No, lasciati, tienila lì, dai. Adesso non c'è la possibilità di scenderla a prenderla. Perché devo mettere in moto il camper. Perché solo col camper lì la posso portare giù, capito? Non era per saperlo, ma che tanto... A me sinceramente non mi ha soddisfatto, quindi devo essere sincero, non mi va bene la mantova. Vabbè dai, tienila, appena che ho l'opportunità scendo... E la vedo, dai, al limite me la porto sulla mezza campagna, se va bene. Andare, andare. Non c'è problema, già è qua. Se la vuoi, se ce l'ho ancora, sono demolita. E anche un'altra direttiva, ma quella che la voglio prendere. Adesso non ho idea di come fare, però ce l'ho sul tetto stesso, smontata. Però non so se piatto o meno. Stavo dicendo, ti adesso la stai pilotando con la mantova 5? No, con la 1, io la 1. KK. Arrivi benissimo qua. Capo, aspetta che provo un altro apparato, aspetta. Capa, Lucarie, tutto a posto? Ah, fai una cosa, tieniti in memoria questo segnale, così vediamo cosa cambia. Ok, dai, prova. Tutto positivo, fratello. Eccomi qua, fra, vedi un po' se ha cambiato qualcosa. 9.30 CT. E la radio com'è? Normale? La radio è buonissima, bella, bella di lusso, alla grande. E invece con l'altro quanto era? 9.20. Questo spinge un pochino di più, eh. Vabbè, è un valvolare, pilotato, quindi va bene. Cava. Va benissimo, di lusso alla grande. Vabbè, ma per comunità uso questo. Questo è superiore alla radio. Vabbè, questo è un altro microfono, un'altra timbrica, un'altra linea. Beh, ti credo. Vabbè. Niente su conto. E capa di positiva, si conferma. Io ho il Michele a 2. Di watt sta uscendo 5 watt modulati, la radio va benissimo e la lascio così. Va bene. Una bella radio questa, va benissimo sta radio. Sì, ma anche la modulazione va bene. E vabbè, questa è una radio un po' seria, dai. La visci tu a me? Sì, ho capito. Tutto un altro pianeta questa qua rispetto all'altra, dai, diciamo che è tutta un'altra cosa. Però vero, ma è Sigma, amico, è la marca di Lamanto, mami, non è che è logico che è buona. Ma tu, bella, diciamo che non è proprio bella, però va bene. Vabbè, però è buona, ho detto, una buona antenna, cioè, e siamo sempre prodotti della Sigma. Non è che fa la Mantova anche. Qua diciamo che praticamente a livello di antenna la Mantova 5 o la Mantova 1 secondo me sono il numero 1 in assoluto. A livello di antenne sto parlando di verticale. Sì, ma anche quella non scherza, è la verità. E vabbè. Adesso ho messo questa provvisoriamente, poi vediamo in seguito cosa piazzarci sopra. E chi è? Chi è? Propagazione. Capo, non ho capito bene chi era, perché è arrivato ed è sparito. E si conferma. Comunque anche quella radio è a posto, Sì, non ti preoccupare, appena che vengo me la biglio. Ok, dai, tranquillo. Ho guarda, di lusso, va alla grande, diciamo che va più che bene. Ma è strano, ma che sono ben di dolci, chi si finare, che stiamo bruciando qualche finale, perché sono belletto quelli tosti. Sono a MOSFET. Non toccare più niente da come, capito? E che ne tocca? 10 anni ce l'avevo con la radio, si è progettato da me, unico proprietario. E vabbè, tu non la tocca, la cara Gussi. Ciao. E vedrai che non ti dà problemi. Sì, sì. E io mi allontano un attimo, devo fare cosa, dai. E io, vai, vai. E anch'io, dai. Devo fare i documenti, quindi... Sono la mattina che viene pesante farli, mi devo sentare dalla radio. Nel caso ci si sente più tardi, dai. Ok, ciao, riprendi Anto, dai. Ehi, capo, dai, fatte, non c'è nessun problema. Ciao Tino, buonasera, ce la riascolta dopo se coincide, vai, ok. Via, ciao. Via. Parlando di stai fra. E a tu, devo fare alcune cosette qua, dai, un attimino, magari riprendo dopo, capito? Sto facendo alcune cosette qua, cava. Via, capo. Dopo quando finisco riprendo, sto finendo ancora di sistemare alcune cosette qua a casa che non avevo sistemato, tutto lì. Cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ora prova registrazione, cambio mia radio che c'è questo apparecchio. Lo sai chi ce lo magno? Chiava di positivo. Kappa, ora va bene, eh? Già lo grido, già sto scendo con pochi watt, capito? Se posso, lo posso ancora aumentare di più, ma va bene così, non lo aumento. La radio è buona, va più che bene, ok così. Vabbè, a tu, dai, io ti saluto e riprendo dopo, se coincide. Ciao. Ciao, fra, ci sentiamo. Ciao. Ciao, Rugariè. Ehi, adesso sono qua e ascolto un attimo, sto guardando un film, c'è un film, un canale, là. Adesso sono qua. Ma è un canale di spinti. No. Mi è cielo. Canale, secondo me 2. Canale 26. Cappa. Non ho sentito Marina poco fa. Sì, ho fatto entrare io. Io quegli spinti non li guardo, li faccio. Avanti, ogni tanto sento qualcuno. Invece a salutare i vecchiacci. Cupo di voce.